brutal, encendió nuestra pasión. Melog 2.0 2.0 di Gianluca Nicoletti. Saprete già tutti che domenica cade quell'orrenda festività che corrisponde al brumuro per le passioni amorose. Domenica è San Valentino, già tutti i giornali stanno eccitandosi nel raccontare cosa faranno gli italiani il giorno di San Valentino, dove andranno a mangiare, cosa mangeranno, cosa si regaleranno, come si vestiranno, che mutande indosseranno, che mutande si toglieranno. Ecco, oggi vorremmo fare una trasmissione che in parte probabilmente avrà lo scopo, l'intenzione di annullare l'effetto mortifero della festa di San Valentino. Tutti coloro che già sanno che la loro passione, il loro desiderio, la loro voglia di stare assieme a un'altra persona è chiusi fuori dal mondo, a condividere le cose meravigliose che ci si può dire, fare, baciare lettere e testamento fra due persone, beh, sappiano che oggi possibilmente e probabilmente riusciremo a fare una sorta di esorcismo collettivo per evitare che arrivi la festa di San Valentino e cementifichi ogni loro passione. Ma che cos'è questo lampo di felicità che mi fa tremare, mi ridà forza, vita? Vi domando scusa, dolcissime creature, non avevo capito, non sapevo. Com'è giusto accettarvi, amarvi, e com'è semplice. Luisa, mi sento come liberato. Tutto mi sembra buono, tutto ha un senso, tutto è vero. Ah, come vorrei sapermi spiegare, ma non so dire. Ecco, tutto ritorna come prima. Accendi! Tutto è di nuovo confuso. Le luci! Ma questa confusione sono io. Tutte le luci! Io come sono, non come vorrei essere, e non mi fa più paura. Dire la verità, quello che non so, che cerco, che non ho ancora trovato. Solo così mi sento vivo e posso guardare i tuoi occhi fedeli senza vergogna. Lo so, questo sarebbe il top. Tutti vorrebbero un uomo così, tutte vorrebbero un uomo così, noi tutti vorremmo essere così. Un uomo è profondamente affascinato dall'essere sedotto. Un uomo che non ha più ritegno, non ha più nessuna volontà di fare resistenza nei confronti di chi lo può sedurre, di chi vuole sedurlo, di chi ha fatto di tutto per togliergli la sua compattezza, il suo controllo, il suo essere centrale rispetto alla propria tenuta di maschio, e ha ceduto. È innamorato del fatto di essere sedotto, ha completamente abbandonato ogni difesa e si rivolge alle donne quasi chiedendo che lo prendano per mano, che gli facciano dimenticare di essere uomo, di essere maschio, o di essere perlomeno nascosto, trincerato dietro una mascolinità ostentata che in realtà è lo spettro oscuro che uccide ogni passione. Sarebbe bello che tutti gli uomini raccontati dal cinema italiano fossero come Marcello Mastroianni, seduttore in quanto fiero e sottomesso di essere sedotto, ma non è sempre stata così. Io non posso ascoltarla, Fernando. Ci sono cose più grandi, più forti di noi. Ma di che? Non sono libera. Perché? Che sei? Fidanzata? Perché? E allora io che sono sposato? Sposato? Tu non sai. Quella donna ha rovinato la vita mia. Davvero? Io amavo un'altra, Milena. Milena? Quanto era bella, Milena. Bella come te. Tu sei molto più. Dovevo condurla all'altare, ma il giorno delle nozze, con subito l'inganno, con un fieltro magico... Cosa? Un fieltro magico. Ah. La donna che ora è mia moglie, ma dormiva. Mamma mia. Proprio io dormivo. Oh. Mi fece perdere la memoria. Ti giuro, proprio io non capivo più nulla. Quando ripresi la conoscenza, seppi che Milena era scomparsa. Scomparsa? Forse morta. Morta? Ahimè, nel cialtronismo viriloide che affligge il nostro sottogenere di maschi italiani, raccontato dal cinema, c'è anche lo sceicco bianco, c'è anche il trash, l'emulazione fallita, l'emulazione volutamente tragica di un modello alto che a sua volta era già l'imitazione di qualcosa di inesistente. Alberto Sordi nello sceicco bianco, l'eroe da fotoromanzo che fa palpitare la sposina in viaggio di nozze, infame cialtrone sposato, figliato, triste, meschino, provvestito con i panni di Rodolfo Valentino, che a sua volta rappresentava qualcosa che lui non era. Beh, in questo sottile e infame gioco di specchi della virilità nazionale, questa mattina vorremmo condurre le nostre ascoltatrici, già dimesse nella loro passione per l'imminente San Valentino, a riflettere, a gettare lo sguardo a fianco a loro, ad annusare un attimo e capire chi hanno vicino. Chi hanno vicino è mirabilmente raccontato dal nostro cinema italiano, soprattutto nel cinema degli anni dal dopoguerra fino ai felici anni 70, a lambire gli anni 80, il momento in cui ci ha fatto palpitare il cinema, che poi è diventato commedia di genere, poi è diventato qualcosa che noi stiamo settimanalmente resumando assieme a un caro amico di cui tra poco sentirete la voce. Beh, è stato probabilmente lo specchio più fedele, più implacabile della mascolinità italiana. 800 24 00 24, italiani seduttori da pellicola. Quanto li vedete accanto a voi? Quanto li avete riconosciuti accanto a voi? Intanto do la parola all'insigne Giuseppe Sansonna. Sansonna, buongiorno. Buongiorno. Sansonna è un po' il nostro Virgilio, che nel corso di questi anni, aiutati anche dal il profondissimo e stimabile archivio cinematografico del professor Alessandro Chiappini, ci sta aiutando a guardare dentro noi stessi come venivamo raccontati dal cinema italiano. Io ho accennato allo Sceicco Bianco di Alberto Sordi. Io so che tu, Sansonna, in questo momento sei molto appassionato alla storia di Rodolfo Valentino, che forse è il prototipo tarocco di tutta la virilità che vogliamo questa mattina noi raccontare. Certo, Rodolfo Valentino è il soggetto del mio prossimo documentario che sto per girare a Castellaneta. È un documentario sulla memoria del mito nel suo paese d'origine. Lui partì alla volta all'inizio del Novecento, partì per New York all'inizio del Novecento per diventare poi il mito del muto. Lui è nato quando è nato il cinema nel 95, è morto poco prima che morisse il muto. Rappresenta un modello particolare perché recupera tutto l'esotismo ottocentesco, lo sceicco, queste dimensioni che venivano dalla letteratura un po' d'appendice. Sì, quella turcherie che piaceva tanto, questi ambienti sibaritici, sultaneschi. E nei primi film lui faceva il maschio italiano, che ovviamente era relegato in ruoli minori, era l'immigrato delinquente, mellifluo, cattivo. Poi una geniale sceneggiatrice, June Mathis, capisce che lui può diventare protagonista, perché fino ad allora il maschio dominante in America, quindi a livello mondiale, era il maschio solido che puzzava, ruvido, che non avrebbe speso nulla in creme per le mani. Invece Valentino, con questi suoi occhi femminei, quest'aria appunto muliebre, ma allo stesso tempo fisico da pugile. Che a lui veniva molto bene, diciamo la verità. Sì, c'era una... Diciamo l'indicibile, così ci togliamo questo pensiero. C'era un'ambiguità di fondo che tu hai ben evidenziato. Soprattutto aveva quest'aria muliebre, ma rapiva la donna, la stuprava, tra virgolette, e poi la faceva innamorare dopo. Quindi c'era questa sorta di ambiguità continua a più livelli che squadernò le carte dell'immaginario femminile mondiale. Diciamo, allo stesso tempo aveva questa forza dirompente che poteva essere artiglio, ma allo stesso tempo diventava anche carezza e tenerezza. Quindi racchiudeva in sé, Rodolfo Valentino, ciò che è improbabile che sia racchiuso in un essere maschile. E quindi è diventato il prototipo di tutti gli immaginari maschili, erotici, passionali che ha potuto fornire il nostro cinema. Ma lo sai che sei tutto? You are everything, everything. Tu sei la prima donna del primo giorno della creazione. Sei la madre, la sorella, l'amante, l'amica, l'angelo, il diavolo, la terra, la casa. Ah, ecco che cosa sei, la casa. Sì. Però sai, Sansonna, risentendolo, questo ossessivo Mastroianni, qui siamo nella dolce vita, con questa idea della donna avvolgente, onnipresente, io non so, non riesco a mettermi nei panni di una donna, nella mente di una donna. Secondo me un ideale di maschio così alla fine diventa stucchevole, noioso. Questo eterno omaggio alle donne, come se in realtà fossero l'unico vero corroborante pensiero di un essere umano. È vero così gran parte. Senza donne un uomo non può vivere. Ogni cosa che noi facciamo, parliamo dal punto di vista dei noi maschi, chiaramente, apertamente, senza mezzi termini, lo facciamo perché pensiamo sempre ci sia una donna che ci osserva e che palpita per noi, che ci dice bravo, che ci dice grazie e che ci giudica, e questo è vero. Ma quando diventa ossessione, comincia a sorvolare, a scivolare nel rischio del macchiettismo. Sono d'accordo, Mastroianni ovviamente è stato presentato anche moltissimo negli anni dei media, in tutti questi anni, dalla Dolce Vita in poi, come cliché di tutto questo mondo maschile. Lui è il classico maschio indolente, con la voce di panna, appunto, seduttore per inerzia, come dicevi tu, malinconico, timido, che si abbandona, però ovviamente è diventato anche una sorta di icona. Qui parla con il linguaggio anglofono anche per richiamare a questo mondo che cerca di sedurre oltreoceano. Sì, come vent'anni dopo farà Mal dei Primitives e tutti i suoi epigoni. Shel Shapiro, questo è l'anglismo come esotismo, l'esotismo di Valentino, si torna sempre a questa sorta di esotismo che rimanda in un gioco di specchi a un mondo che non esiste. Sì, noi abbiamo sempre bisogno di simulare cose che non siamo, abbiamo una sorta di vergogna delle nostre pezze al culo, detto in termine molto, certo, molto volgare, e quindi dobbiamo sempre seguire un ideale di raffinatezza che noi collochiamo soltanto nell'esotismo. In un altrove che non esiste, si allude sempre a un altrove che diventa quella la ricchezza, il sogno. Ma proprio su Mastroianni, e esorto l'ascoltatrice questa mattina a chiamare 800 24 00 24, perché noi stiamo facendo l'altra parte, la parte che compete a noi, io e Sansonna e io, ma a voi spetta completare questa riflessione sui sensi amorosi riguardo a modelli inesistenti, a modelli artificiali, a modelli tarocchi costruiti su realtà che non esistono. Vi siete guardati intorno? Avete mai riflettuto su questo? Rispetto a ciò che vi stiamo proponendo come immagine ideale raccontata dal cinema, qual è poi la cruda realtà, o perlomeno qual è la corrispondenza al contrario rispetto a quelle che sono le vostre esperienze? Cioè, Mastroianni, in questo meraviglioso, poetico, piacevole in quanto sortilegio, in quanto gioco individuale che si può fare a volte, ma non sempre, uomo perso nelle donne, però mostra un implacabile rovescio della medaglia a questo aspetto in un altro film in cui viene raccontata crudamente, anche se non perfettamente attinente al testo originale, la storia del bell'Antonio di Vitaliano Brancati. Non ti chiederò niente, sta sicuro, sta tranquillo, da me non avrai nessun fastidio, non sono come le altre. Eppure anche tu sei come le altre. Che cosa vuoi dire? Tu non sai quello che dici. Sono venuta da te disposta a tutto perché ti amo. Sono ragazza, capisci? Sono ragazza. Amore mio, ma cos'hai? Stammi vicino, stammi vicino. Ma perché vuoi umiliarti? Non posso, non posso. Antonio, perché non puoi? Perché non puoi? Ahimè, il bell'Antonio, e Mastroianni non poteva essere che lui, il bell'Antonio, talmente bello, talmente simbolo di piacere, di possesso, di seduzione, lo è per la madre, lo è per il padre, lo è per tutte le zie, le parenti, le cugine, i nipoti, il paese, che può anche permettersi di turlupinare la bella moglie, farle credere per mesi che possono essere marito e moglie senza il necessario e proficuo e benefico atto dell'accoppiamento sessuale. Diventa pure icona, una divinità in questo caso, il bell'Antonio. Poi invece il padre catanese si suiciderà con una prostituta davanti all'ignominia del mancato atto per sessuale. Dimostrare che a lui non mancava nulla, è l'esempio opposto, è l'altro eccesso rispetto al bell'Antonio, che quintessenza così tanto l'essere il paggetto amato da tutte le donne, che alla fine però evita di compiere l'atto indispensabile per poi per suggellare il fantasma amoroso di ogni donna. La Sicilia diventa il luogo dell'immaginario maschile italiano, evidenziato in tutte le sue parti, perché dove c'è l'ipermaschio, poi vedremo. Quindi noi abbiamo celebrato il paradosso e il parossismo del maschio italiano, anche perché siamo stati molti favoriti da circostanze ambientali. Però cominciamo a sentire qualche ascoltatore, visto che le ascoltatrici ancora nicchiano, peggio per loro, e si beccheranno Malgioglio che fa la festa di San Valentino in diretta domenica pomeriggio. Pasquale, buongiorno. Buongiorno, complimenti innanzitutto per la trasmissione che seguo quotidianamente dal momento che sono in auto. Finalmente l'ho visto in televisione, perché mi aspettavo un personaggio del tutto diverso, chissà perché, nel mio immaginario Mi dispiace averla delusa, ma poi in fondo non è che per me sia un grande problema, anzi, è il contrario, addirittura è il contrario. Niente, io volevo prendere parte a questa trasmissione perché, scusi il gioco di parole, mi sento chiamato in parte, perché praticamente io ormai da un anno ho una relazione parallela alla mia già esistente, perché sono sposato e comunque ho un forte legame con una persona che ho conosciuto per gioco un anno fa. Ma che cosa singolare, ma guardi, come le sarà successo? È la prima volta che sento una cosa del genere. Veramente, ci racconti questa meravigliosa e singolare avventura. Cioè, lei è sposato e si fa, e diciamo, sogna amorevolmente anche un'altra donna. Sì, più che sogno amorevolmente, sono innamorato di un'altra donna. Sono innamorato di un'altra donna perché in quella donna ho visto quello che poco fa commentavate di Mastroianni, ho visto tutto in questa donna, ho visto inizialmente il trasgredire la normalità, poi è diventata la donna con la quale sfogarmi, la donna con la quale piangere, la donna con la quale fare il viaggio, la donna con la quale condividere gioie e dolori. Che certo, un bel peso appoggia addosso a questa povera disgraziata. Ma penso che alla fine... Cioè deve allevare un ragazzone che piange, si lamenta, dispera, dice quanto... No, non lo so, mi viene in mente. Io non ho mai sentito parlare di cose del genere, non ne ho esperienza, però la sento con piacere. Ma forse lei lo fa con molto piacere, perché comunque è una cosa che è cresciuta quotidianamente, una cosa che siamo arrivati ad oggi ad avere un sentimento fortissimo che l'un l'altro non riesce a farne a meno. E l'altra donna è sposata, naturalmente? No, non è sposata, aveva una relazione che... Ma la moglie in questo... La moglie non sa nulla. Ah, ok. È giusto che non sappia nulla. Okay. No, io spero che non farà mai la debolezza di confessare questo suo momento passeggero. No, chi lo sa, No, guardi, perché poi quando l'altra donna la accannerà, prima o poi accadrà, perché se lei o lascia la moglie e va con l'altra, o l'altra la mollerà prima o poi, lei sarà distrutto, disperato, vorrà suicidarsi, e la moglie sarà l'unico conforto che le permetterà di ritornare a una condizione normale, quindi se la tenga cara la moglie. Ma io mi auguro di non arrivare mai a questo. Ma in eterno non credo che l'altra si accontenti. No, in eterno no, però i miei programmi sono verso questa donna che ho conosciuto. Ah, quindi un giorno dirà, aspetterà che lentamente se ne accorga sua moglie, no. Un giorno che sua moglie dirà, caro guarda, no, mi sono accorto che da un anno a questa parte qualcosa in te è cambiato, no, soprattutto da quei graffi profondi che vedo nella tua schiena, e quindi penso che forse avrà il coraggio di dirglielo. No, i motivi che mi tengono ancora legato alla moglie è che ci sono delle altre cose che non sono quelle del solo vincolo matrimoniale, ma ci sono delle attività in piedi, ci sono delle cose che siete anche definite. Soci di lavoro. Senta, però adesso le faccio una domanda e lei mi deve rispondere. Il giorno di San Valentino lei come lo divide? Io il giorno di San Valentino per me è uno, è quello che trascorrerò con la seconda. Con la seconda. È la prima, che è la prima. Che è la prima. E cosa racconta invece l'altra, che è la prima però è diventata la seconda? Ma non do molte spiegazioni. Scusi, la vedo uscire di casa e improfumato la testa ai piedi, che si è appena cambiato le mutande, con un mazzo di fiori, con cioccolatini sotto braccio, con la brillantina, con scatoline strane in tasca, e cosa le dice? Vado a lavorare. Non credo che uno esce di casa con i fiori non ce l'ha in casa, certamente. Vabbè, lo vede con aria euforica, ciao, io esco, vado a fare due passi. Vabbè, questo sarà un problema di tante persone, anzi diteci, chi soffre questo problema della divisione del giorno di San Valentino fra amori concreti, reali e palpitanti, e tiepidi amori di consuetudine, ce lo faccia sapere. Gennaro. Buongiorno. Sì. Sono qua. Io veramente registro un altro fenomeno, quando si incontra o conosce una donna, la prima domanda è dove abiti e che fai, che in una sorta di dichiarazione dei redditi. Per sapere se casomai volesse avventurarsi con lei in un luogo che non sia un marciapiede, vorrebbe avere qualche garanzia che sia confortevole. Alberi, le seconde case, questo problema si supera. Poi la fase drammatica è quella successiva, lo stato civile. Non c'è persona che quando la conosce non conosce la persona, ma vuole la documentazione, come fare un mutuo. Quando va in banca le chiedono che lavoro fa, dove abita, quanto guadagna. È la stessa cosa. Io ho l'impressione che si sia perso proprio il coraggio di sognare, il coraggio di viversi la vita. Il problema è che gli anni passano, che non abbiamo più tutta questa, questo appeal fascinoso solo a guardarci, quindi è chiaro che se vengono chieste informazioni più particolareggiate sull'attendibilità e la solidità del nostro stato. Melog 2.0. Ecco qua le valigie, erano due, vero? Right. Adesso andiamo my car. Il mio nome è Giovanni. Welcome in Sicily, my beauty. Ecco qua. Tu molto gentile. Io italiano. Poca spesa, very inexpensive. Molta pace, very quiet. Io conoscere piccolo albergo, little hotel. Dove tu molto incantata. No, io credo non possibile. I have reservation. Eh? Io prenotaccio albergo Taormina, tu capisci? Taormina molto romantico. Posto di innamorati. Lovers, capisci? Amore. amore, lovers, come fate voi stranieri l'amore? Noi molto più bravi. Noi siciliani abbiamo fuego, capisci? Fuoco. Non poteva non essere evocato Lando Buzzanca in questa galleria di eroi tarocchi dell'amore immaginato, interpretato, millantato, questi miles gloriosus dell'accoppiamento. Questa mattina stiamo parlando dei modelli di seduttori italiani o di oggetto di desiderio, di piacere, di passione, di innamoramento, di compagnia maschile in Italia raccontati dal cinema. Il nostro cinema, soprattutto un certo tipo di cinema, che a un certo punto ha smesso di raccontare questi uomini perché è venuta la generazione del moccio amoroso, dell'amore moccioso di cui abbiamo già parlato. Giuseppe Sansonna, di cosa stiamo parlando adesso? Questo era Don Giovanni in Sicilia di Lattuada, tratto dal romanzo di Vitaliano Brancati, che introduce il Sardanapalo del cinema italiano, cioè Lando Buzzanca, l'uomo che ribolle di testosterone, il siculo arroventato da cliché, che così i tratti volitivi da ipermeridionale e la sua fisicità prorompente, l'occhio da satiro, è già pronto per diventare l'eroe da romanzi da fumetti da caserma. Sì, il montatore. Ci fu un periodo nei devastanti anni 70 in cui andavano molto in voga dei fumetti erotici, poi alla luce del comune senso del pudore erano banali fumettini con donnine un po' spogliate, che avevano l'idea di usare facce di personaggi importanti. C'era Celentano, c'era Gianni Morandi, Lando Fiorini e un camionista chiamato il montatore con la faccia di Lando Buzzanca, che naturalmente usava chiavi inglesi e attrezzi vari come metafora della propria prorompente virilità. Acqua di ciumi, sonno i dovrazza freschi di maga, io sogno un persico che ci sporpi la vita. No. Acqua di fiume, sono le tue braccia fresche di maga, capisci? Io sono una pesca a cui sporpi la vita. I'm a bitch and you suck my life. Suck my life. Succhi la mia vita. Succhi my life. Uno ama e tu succhi. pardon. Elena, buongiorno. Buongiorno. Pronto? Sì, la sto ascoltando. Sì, buongiorno. Io purtroppo non sono più alla radio, però diciamo ho avuto modo di sentire parte della trasmissione e soprattutto ho ascoltato l'intervento di un radioascoltatore che raccontava di condurre una vita parallela. E mi è venuto in mente diciamo una piccola riflessione da proporgli. Lei è siciliana, vero? Sì, siciliana di Palermo, quindi l'ho introdotta... dove gli uomini con questo testosterone non ci sono più. Cioè questo Buzzanca è rimasto solo questo. Ecco, diciamo, già allora era una macchietta, ma oggi di Don Giovanni in Sicilia non ce ne stanno più. No, assolutamente, assolutamente, anzi, diciamo che gli uomini sì, avranno delle alte dosi di testosterone che secondo me però nei fatti e nella vita dimostriamo noi donne di avere, al contrario diciamo loro. E secondo me questo è anche l'esempio dello radioascoltatore di poco fa, il quale raccontava di avere questa vita parallela, e io mi chiedevo se un giorno questa donna, che per lui adesso è la prima, che è la trasgressione, nel momento in cui diventasse quello che oggi è la moglie, ossia gli lavasse le camicie, gli lavasse le mutande, gliele stirasse, se sarebbe ancora la sua trasgressione. Io penso di no. Beh, lui pensa probabilmente, nella nostra follia maschile e nella iperconsiderazione delle nostre capacità, su cui rimaniamo spesso delusi, pensa che sì, potrebbe accadere questo. Ogni uomo sa che l'oggetto della passione, il desiderio, messa nella condizione di compagna di vita, ricadrà nelle stesse ciabatte, nello stesso odore di cavolfiore. Ma lui pensa che poi magari è tanto pronto a trovarsene un'altra e continuare all'infinito. E quindi dico, ma dimostrasse di avere il testosterone dicendo alla moglie quello che fa. Io penso proprio che la moglie... In questo non sono molto d'accordo, se permette. Perché no? Far del male a una persona per una sua baggianata che sta conducendo in maniera un po' devastante per la sua vita? Perché guardi, mi scusi se la interrompo, sì. Ma il non essere sincero secondo me è ancora peggio. Tu fai comunque soffrire una persona. Ma la sincerità, guardi, la sincerità quando si parla di amore, di rapporti personali, di rapporti intimi, di passioni, è l'ultimo degli ingredienti da usare, secondo me. Non lo so, sarà che io mi sposo fra qualche mese e le cose le vedo in maniera diversa. Allora vuol mettere le mani avanti, ha dei ripensamenti. Non so, no, dei rimensamenti ancora no. Quindi l'ha trovato però il Don Giovanni in Sicilia, scusi se lo so. Sì, non è molto Don Giovanni, nel senso che è la persona che vedo come compagno della mia vita, con cui comunque mi farà piacere stare in ciabatte insieme. Vabbè, come la moglie di Fantozzi dice, Ugo ti stimo tanto. No! Si sta condannando all'infelicità estrema. No, questo no, è no, scusi, già, sì, ma già l'ha deprezzato e stimato dal punto di vista della vigoria sensuale. No, ma dico, ma il vigore, cioè essere vigorosi non significa indubbiamente essere uomini che hanno mille donne dall'avventura di una notte e via. No, quello assolutamente. Anche perché purtroppo soltanto c'è adesso, almeno i giovani, sono soltanto questo. No, ma oggi guardi, le dico, non che, che ne abbia esperienza personale, ma... Dicono, non so, che girino dei supporti chimici che permettono anche a un vecchietto pensionato sulla sedia a rotelle di far questo, quindi non è più quello il punto di eccellenza, secondo me. Certo, no, la penso come lei, sotto questo punto di vista. Vabbè, insomma, le faccio i migliori auguri, anche se, ahimè, la vedo un po' destinata a un futuro di ciabatte e tiepidezze, quindi... No, guardi, ovviamente non farò nulla per la giornata di San Valentino, perché ritengo che sia una giornata da innamorati imbecilli, ecco. Ecco, non uscirei mai con un uomo che mi chiedesse di uscire alla sera di San Valentino o mi proponesse dei cioccolattini o dei fiori, ecco. Questo è una cosa su cui sono certa e ne sono sempre stata. Va bene, Elena, le rinnovo i miei auguri per la sua grigiastra vita matrimoniale, ma lei l'ha detta così e quindi in bocca al lupo. Elisa. Buongiorno. Eccomi. Mi ero molto incuriosita dalla sua affermazione di pochi istanti fa con un ascoltatore riguardo appunto al rapporto con l'amante. Ma vi ha colpito tanto? Noi volevamo parlare degli uomini del cinema italiano e l'amante vi ha fatto tanto addolorare. No, la sua impressione, la sua considerazione sul ruolo di amante mi interessava molto, sì. Perché questo signore giustamente o ingiustamente diceva che piangeva, si disperava, si divertiva, via dicendo. Vabbè. L'amante per lei che cos'è? Deve avere un ruolo garrulo? Questa frammentata galassia di io le dico come la penso io, ecco, sì, in maniera del tutto astratta. Io trovo abbastanza idiota trovarsi una seconda moglie, uno si tiene quella che c'ha, se deve riversare su un'altra persona tutte le ansie della propria meschinità. Io non so cosa sia l'idea dell'amante. Io quello che trovo esaltante, ma come sogno onirico, come fantasia, è avere persone in cui si dischiudono velocissime situazioni di felicità, di curiosità, ma poi basta, si richiudono. Perché se uno deve rimpiantare le basi di un altro rapporto, ma tanto vale che si tiene quello che c'ha, perché immancabilmente si ricade sempre sullo stesso tracciato, sempre nelle stesse ciabatte di cui la nostra ascoltatrice siciliana prima faceva baluardo della sua futura vita matrimoniale. Ma lei sa che a volte è un aiuto esterno, perché certe situazioni matrimoniali vanno vissute per essere alleggerite in tre, per cui non è facile. Allora alleggeriamole in quattro, cinque, sei, perché in tre si ricrea sempre il gioco di coppia, che se uno non l'accetta, ricrearlo lo trovo un po' masochista. Io l'accetto, però dopo, quando ci sono di mezzo dei sentimenti, e le donne purtroppo, a volte anche gli uomini, ma le donne sono portate a un romanticismo al quale voi ci abituate. Beh, lei allora è amante di qualcuno? Sì, certo. Ma mica è un problema. No, assolutamente. Lo dica subito, però, no? Ma c'è stato l'occasione. No, non c'è stato motivo. Ma lei difende la categoria dell'amante, seconda moglie. Oddio, difende. difendere. Capisco, perché la situazione a volte capisco molto tutto, pesanti. Io non condanno nessuno, però no, faccio delle categorie. Capisco perché come nella mia situazione, ecco, un rapporto longevo, però un rapporto molto forte. Diciamo che la patologia del maschio è così profonda, così diffusa, devastante, che non basta un'infermiera, ce ne vogliono due, questo è il problema. Sì, ma anche per la donna, io parlo per la donna. La donna a volte vive una situazione talmente difficile, non difficile, tremenda, drammatica, però un po' pesantuccia per tanti motivi che... E ha bisogno di alleggerimenti. E va bene, questo lo ammetto, è lecito. Non vedo qual è il problema. L'amante per lei è una persona garrula e basta. Beh, se è noiosa, che se tiene a fare uno? Se io ho un problema, glielo posso dire al mio amante oppure me lo devo tenere? Non lo so, provi a dirlo al suo amante. Se vuole me lo racconti a me, vedo cosa le posso rispondere. Ma non voglio essere suo amante. Per cui bisogna essere garrule. Non lo so, ma la spaventa questa parola, non è una bestemmia. No, ma mi interessava la sua opinione. Mica vuol dire idiota, vuol dire... No, anzi, allora, essere molto intelligente. Se uno esce da una regola, perché quella regola gli pesa. Se quella regola gli pesa, deve trasgredire. Questa parola ha perso senso completamente. Trasgredire vuol dire andare verso qualcosa che ci dia serenità e felicità, non qualcosa che riapra il faticoso mondo della problematica. Ultima domanda. Sì. Se c'è qualcosa che l'amante fa che disturba, uomo o donna che sia, meglio dirlo o è meglio sottacere e farsi sempre la garrulina? Cioè tipo l'alito pesante, queste cose qua? No, so, una manchevolezza. Tipo, faccia l'esempio. Una cosa detta che ha ferito. Tipo, la dica. Lo so, mandi un messaggino molto carino, questo non ti risponde, fa finta di niente, dice, sai, non ho avuto tempo, cioè devi... È un brutto segno. Ai tempi del suo amore con l'amante, certo, arrivano 10 risposte al messaggio. Certo. Ecco, ma lei non sospetta se ne sia trovata un'altra? No. Come fai? Lo chiedevo così. Secondo me quello... No, secondo me sta scemando l'amore da parte dell'amante, quindi lei ormai è già messa nella condizione di seconda moglie, quindi lui già sta svolazzando in cerca della terza infermiera. Questo è il destino, ahimè, delle bigamie tollerate e consumate e mantenute a scapito della libertà di pensiero e della leggerezza di un'altra persona. Melog 2.0. Mizzica, sessualmente pericoloso. E ti chiami Michele Cannarrita, figlio di Mastrangeo Fallegname, quello della cassa da morto? Nipote. Ma tu, oltre a ingravidare le femmine, che sai fare? Come lavoro, intendo? Tutto, possiamo comandarsi, tutto. Che scuola hai fatto? Terza elementare. Ah, capite bene. Lo sai che qui pure gli scopini sono ingegneri. Con la terza elementare manco lo stappacesso ti fanno fare. Prima o poi le paghi pure qua. Quell'affare è come un'arma. Saperlo usare bisogna. Uccide più la minchia che la spada, ricordatelo, cammina. Però è interessante. Fare trasmissioni alla radio, devo dire che insegna molte cose. Io mi rendo conto questa mattina che cercavamo di smuovere, divertendoci, l'immaginario delle persone, riportando modelli che hanno avuto un ruolo pregnante nel nostro passato, Lando Buzzanca, l'amore devastante, il defloramento beante, tutte queste cose qui che fanno parte comunque del nostro immaginario, del nostro desiderio di essere quello che non siamo, la nostra volontà di espanderci oltre i nostri limiti. Ecco, tutto questo non smuove semplicemente nessuno del nostro pubblico. Tutti hanno improvvisamente colto qualcosa legato alla loro esperienza con quel signore che ha detto che viveva una vita divisa fra una moglie e un amante, e tutti mi chiedono rassicurazioni, mi chiedono consigli, come se io fossi una sorta di Natalia Aspesi che potessi dirgli a quella signora perché non gli è arrivato la risposta al messaggino del suo amante. Io penso, Sansonna, che ahimè il moccio amoroso di Moccia abbia devastato anche non soltanto nelle generazioni infantili e adolescenziali, ma anche nelle generazioni adulte. Sì, non si sogna neanche più, c'era anche il discorso sulle ciabatte, insomma, questa dimensione appunto quotidiana un po'... Sono atterrito dalla visione della donna siciliana, che dice che comunque non esiste più l'uomo che la fa palpitare sensualmente, si sposa uno e sogna di vivirci le ciabatte. Ma se non c'è l'illusione, cosa c'è? Cosa ci rimane? Insomma, non rimane nulla, rimane solo appunto... Ecco, invece in questo Homo Eroticus Buzzanca continua a proclamare una bandiera come è stata ammainata su tutti i fronti. Qui c'è l'illusione che torna, perché c'è un uomo che è afflitto, Buzzanca ha le physique du rôle per essere afflitto da questa malattia, che è il triorchismo, ovvero ha tre testicoli e un membro spropositato, asinino. Come dicevano che fosse Bartolomeo Colleoni, sì. Che aveva nello stemma le tre sfere che erano il simbolo del suo casato. Questo libro è tratto, questo film è tratto da un libro di Piero Chiara, e racconta appunto di quest'uomo del sud che Cannaritta, Michele Cannaritta, che come i personaggi di Pirandello ha il destino nel nome. Nomen, certo. Arriva da sud a nord e si fa strada col suo membro, e riesce ad affermarsi anche dal punto di vista lavorativo. Quindi c'è tutta una sorta di metafore anche sociali che attraverso il sesso lo affermano socialmente come individuo, insomma. Sentiamo Stefano. Stefano, buongiorno. Sì, buongiorno Nicolè. Ecco. Senta, io la vedo perfettamente al contrario di lei su questo argomento, su altri no, ma su questo. Su quale? Quello del... Su quello che diceva che bisogna dirsi le menzogne tra marito e moglie. Non è che bisogna dirsi le menzogne. Sì, no, di non mai dire, comunque di mai ammettere la verità o così. Ma no, ma ammettere la verità, scusi, uno che vive una vita bigama praticamente, o si decide che la moglie la lascia, o se no perché deve farla soffrire? Ci sono quelli che dicono, sai cara, amo un'altra, poi continuiamo a vivere insieme da buoni amici, ma mi sembra una cosa un po' idiota, non lo so. Beh, sul bigamo sicuramente. Io su quello però dicevo. Intendo dire, generalmente bisognerebbe sempre dirsi la verità. La vera trasgressione è questa, riuscire a creare un rapporto dove ti dici tutto. Sì, ma se lei dice la verità si prende una padellata in faccia se la moglie c'ha un po' di palle, scusi. No, non è vero, perché se lei crea una complicità con sua moglie... Sì, ma scusa, come ieri quello che per attizzarsi si portava le amiche a casa e li faceva accoppiare con la moglie. Cioè, siamo ormai in un universo che... in quale ormai, sa, io sono un signore di un altro secolo, non mi ci ritrovo più tanto. No, ma io sono del suo secolo, cioè, ma non vuol dire queste questo. Mogli complici, ma io le vedo nei film di Rocco Siffredi, perché le mogli normali, se ma uno no, gli prova no, a dire no, stasera no, esco con un'amica, già ti guardano storto. Gianluca, allora lei le va a fare con altre queste cose? Che vuol dire vada a fare con altre? Lei va a farle con altre, cioè, donne queste parte. Cose che con sua moglie non vuole fare perché è sacra. Ma io non ho capito il suo filo, scusi, cosa li deve fare con altre? La complicità. Cosa vuol dire lei? Prima ha accennato quello di ieri che ho sentito anch'io. Scusi, lei sta dicendo bisogna dire tutto alla moglie, anche le trasgressioni. Sì. Ma io non sono d'accordo. Uno, se può, evita di farle, ma se gli capita di farle perché deve andare a affliggere la moglie con le proprie marachelle. Ma non è affliggere, perché magari anche la moglie le ha queste idee. Certe idee comunque lasciamo stare qualsiasi campo, lei. Quello sessuale. Questa è la sua è teoria. Vabbè, questa è la teoria in cui la coppia bisogna dirsi tutto. Io sono d'idea che i fuggevoli turbamenti che uno può provare per altre persone è meglio che si elabora per conto suo, perché deve affliggere un'altra persona. O perlomeno, se questi turbamenti sfociano in una scelta di vita, è giusto essere chiari e leciti. Ma se una persona passando per strada gli batte il cuore per la tabaccaia tutte le mattine che passa, ha questo palpito, ma perché dovrebbe raccontarlo alla moglie? Idem la moglie. Se improvvisamente gli si otturano tutti i lavandini e ha un uso compulsivo dell'idraulico, è meglio che non dica al marito, a meno che l'idraulico poi si prenda anche l'onere e il carico della famiglia. Allora è giusto dirlo. Questo è come la penso io, ma non detto che sia una verità assoluta. Che faccio se mi eleggono? Se mi eleggono, che faccio? Il presidente, Giacinti, il presidente. La femmina l'hai scoperta, l'alcol lo stai a scoprire adesso, sarai un presidente perfetto. E poi anche se per caso non ci dovessi riuscire, ma che te frega? Hai imparato a goderti la vita. Ma che dirà il popolo? Ma che ha da dire il popolo? Tra poco comincerà la campagna acquisti del campionato. Il disco per estate, il popolo se ne sbatte. E il prossimo disco per l'estate potrebbe anche essere Giovinezza. Io sto notando Giuseppe Sanzon nel nostro tentativo disperato, questa mattina devo dirmi sconfitto nel mio desiderio di condurre una trasmissione nei territori a me più compiacenti, che più mi piacevano. Noi stiamo da una parte seguendo un filo parallelo di racconto di qualcosa che attiene a un immaginario. Non è detto una realtà, ma un immaginario. D'altra parte c'è un'insistenza da parte del pubblico che mi segue con affetto, con passione, con contrasto, con reazione, quindi a cui sono molto grato, a voler insistere sulla definizione sociale della trasgressione. Tutti vogliono comunque una giustificazione sociale, una sorta di ammorbidimento di ogni atto trasgressivo, anche onirico, anche di pensiero. Tutti impugnano un'idea, secondo me, inesistente, a meno laddove esistano rapporti artificiali, di famiglie in presenza aperte, di mogli disponibili a condividere ogni pensiero pecoreccio del marito, di mariti felicissimi di ascoltare ogni confidenza alla moglie. Secondo te esiste tutto questo? Esiste un immaginario cinematografico che tutto questo racconterà? Potrebbe esistere, però io sento anche una forte esigenza di omologazione, anche di volontà di essere ratificati nelle proprie trasgressioni, nelle proprie perversioni, di conferme, di assenso anche da parte tua, da parte degli ascoltatori. Io penso che il vero problema sia delle tante poste del cuore che hanno sempre assolto, elaborato, dimostrato e omologato ogni desiderio e ogni voglia di fuga. Comunque, grazie a Sansonna, ci sentiamo domani. Lasciate un messaggio alla segreteria telefonica di Melog. 828 1111. Melog va in replica questa sera alle 22. Melog 2.0.